Svezia. Ehi, dimmi. Un poco, ci passo. Non scendo basso? Ma di radio? Adesso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adesso meglio. Ah, ecco. Fritto, quindi, fritto. Ah? Freddo era, baracchino, aveva appena acceso, lui neanche un secondo. Ho capito, pompo. Che era parecchio, era freddo, capito? Beh, perché cazzo mi sta facendo così? Posso dire. Ecco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo thriller. Aspetta che sia un po' che non lo usi. È un po' così, Adesso mi metto, aspetta. Sto scendo un po', sì. Ecco. Adesso sono a 5. Ma è stato un inizio, cos'è il primo? Ok, 140. Adesso già stavo scendendo. Ho toccato questo video. Quando rimane bloccato già lo sai, si forma la polvere. Ah, ecco. E tu cosa stai combinando? Ti posso sognare di visitare a casa due ogni santo giorno. Sì, ogni santo giorno? No, no, ah, via questo del pane. Via. Che cazzo, già va bene. Ehi, loro prendono quelle, quel pane per fare i tramezzini. Esatto. Almeno lavori qualche cosa, ti fa, diceva quello. Vabbè, quindi di nulla. Beh, meglio di niente, sì, già lo vedo. Positivo, positivo. Allora, non hai sentito nessun altro? Non ho idea. Non è entrato. Marco, boh, non c'è nessuno. No, no, nessuno. E magari sono... sarà piano di caffè, senz'altro. Ma stavo manco più accendendo. Sì, vabbè, io ogni tanto già accendo. Parlo con quelli di Alghero. Ho il 27 sono direttamente in PMR. Capito? Ecco. Gaba, gaba. Già va bene, già va bene. Ebbè, Lu. Ciao, Valtore. Ciao, Giomari. Salutoni, ben sentito. Ehi, Giomari. Cavolo. Eccoci qua. Ecco, cosa vuoi fare? Ammazzare il tempo, vai. Eia, eia. Cosa ci vuoi fare, Giomari, purtroppo? Hai saputo il morto il fattore di Emanuele, eppure? Eia, l'ho saputo. Non ci ho potuto andare, che non mi sento bene ancora. Però già l'ho sentito, siamo vicini al fratello, grande Emanuele. E per cui ci è andata mia figlia stamattina. Ma sai che c'è anche Claudia, vabbè Claudia. No, già ti ascolto, sono qua Lu. Ci sentiamo al prossimo. Ciao davanti a me. Ehi, ciao Claudio. Saluto di ben sentito. Stai leggermente gracchiando però. Gracchiando? Boh, la vita non l'ha dato la radio, non so. Se gracchia perché c'è prurito o se gracchia perché non funziona. No, è sempre no, è la voce sua, pompo. Da me non gracchia, forse mai da te è più vicino. Comunque passo anche lì ogni giorno vicino a casa di Claudio, ogni santo giorno. Se ogni tanto vedo qualche volpe morta. Ehi, più di una non ammazzare chissà che perché camminano troppo, è pieno di cinghiali, volpi, un casino. Ma vabbè, Lucari, adesso sono andato a salutarci. Sto facendo cosa, riprendi Antonio. Via, d'accordo, Claudio. Andrà bene, avanti Giovanni. Ciao, Claudio, buonasera. Abbiamo sentito, riprendi Lu. Ciao Giomari, non ti avevo sentito, ciao, buonasera anche a te. Ehi, ehi, Giomari, dai, cosa vuoi fare, purtroppo. La vita è questa, non possiamo cambiarla, dobbiamo tenercela così. E vabbè, comunque io già sto lavorando, grazie a Dio, dai. Ogni mattina mi alza alle 3:30. Alle 5:20 voi sei già operativo. Fino alle 9 qualcosa ho finito. Da lunedì a sabato. La domenica ce l'ho libera. E niente, si deve accampare, Giomari. Mi fa piacere, va. Bisogna mi cruttare allora. Non bisogna fermarsi, bisogna abbiclitarsi a padre da davanti. E per cui quando uno c'è qualcosa da fare, bisogna farlo e basta. Finché si trova il punto giusto, capito? Bisogna travagliare. Già si tallassi, a mamma, a babbo, sì. Bisogna lavorare. Ma io a parte quello poi faccio altri lavori, Ogni tanto mi piace qualche altro nella TV. Insomma, dai. Quando andare peggio mi dà meglio che andare così, domani. Se no, se no che vedo non canta messa. Avanti un po', riprendi. Io per fare niente di TV oramai. Una volta ci salivo sta partita, adesso non mi fido più. Ma per niente. Capito? E mi trovo giù, mi trovo. Quindi no, non mi fido più. Figurati. Un giorno. Beh, mi fa sono andato con Giuseppe lì a pensare questa antenna lì alla cementeria e tutto ho detto, tutto in lamiera era. Tu immaginati, ci mettevi la scala, la scala camminava da sola. Infatti ho provato a lui e ho detto tienimi un attimino la scala che cerco di sollevare il tubo e così ci stiamo andando. E così abbiamo fatto, pensato l'antenna puntata e me la gioco andata. Beh, allora, tu pensa, l'ultima che ho messo da poco, sarà 3 giorni fa. Un tetto monomale non a tegole, fatto in legno, però hanno messo il catrame ruffido. Però lì lo stesso, è proprio in bilico, basta un capogiro e dice io su. Però dai, tutto sommato, me la sono piazzata e tutto bene, dai. Adesso mi devo fare un salto da qui come mi compro la cintura di sicurezza, così sono più tranquillo, così mi aggancio, si sa mai, proprio così un capogiro ti basta, un attimo c'è io su. Già lo so già, io ero proprio in bilico, capito, ho dovuto metterci una fascetta dalla scala, una fascetta di quella dalla scala al tubo, meno male le gaffe erano di quelle gaffe che si usavano tanto tempo fa, grosse e larghe, tipo quelle che usava la vena, quelle fatte a forbice, a V. Quindi con quelle già con il capo di fare niente, non si piegano quelle. E quindi mi sono agganciato cosa. E da lì sono salito sopra, sono levato un palo telescopico, ho fatto il puntamento e poi ho detto alla signora, io da oggi ho finito, non ci vengo più, quindi se ne vede, se succede qualche cosa all'antenna, se c'è che qualcun altro, perché io a venire qua con 40 gradi non si può manco toccare il petto, ho detto una miera. Mi sono dovuto togliere la maglietta, bagnarla e poterci salire, perché c'erano 40 gradi già lì di 10 e mezza. Sì, avanti, avanti. E adesso l'acqua cantare adesso mia figlia, vai. Ci sentiamo molto giumento. Ciao, cacciato lei, riprendi lui. Via Giovanni, quando vuoi entrare, se ci senti, se siamo qua, dai, ok. Va bene, alla prossima Giovanni, avanti, buon po'. Ok, ciao. Ehi, ciao Giovanni, ci sentiamo, stammi bene, alle prossime. Allora poi peso, cazzo. Quasi 70 kg, una volta ne pesavo 40, c'avevo l'agilità. Adesso anche le gambe stanno girando le balle. A forza di stare qui a casa con Simone e cose del genere. Quindi stanno appena gonfiando, perché sono sempre sdraiato, seduto nel letto a guardarmi il televisore, quindi perché non posso filarla da sola. È un casino. Lo so, purtroppo è così. Poi cazzo rischi la vita, ma sento un gaggardi, per dire, no? 100, 200 quelli che sono, non bastano. Infatti Vabbè, quello che ho fatto io praticamente si chiamava l'antennista, io penso che la spennava. Se un giorno un amico mio ha chiamato l'antennista per mettere di se mette il capo quella dove c'entro io. Tu questo non è mezzo scemo. Tu guarda che c'è il mio dipendente, cioè, no, chiamo il mio, chiamo, dobbiamo dividere in due, ha detto. Allora c'è fatto una casa, e fai prima. Adesso devo vedere una ad Alghero, in antenna, in primavera però. Tempo permettendo, una mia amica gliela devo, praticamente non vedo manco un canale. Comunque io voglio fare una prova, la TV solo mi dà manco un canale. Adesso porto una TV mia, quella che ne ho di scorta, e voglio vedere cosa dice. Se è un problema di TV o un problema di antenna. Perché ce le hanno cambiate qualche anno fa. E se non sbaglio è della Fraccarlo anche. Con questa piazza quella della Fraccaro sono un buon mosso, no? Ah, quelli sì. Se non mi ricordo male, la polarizzazione del secondo orizzontale, se non mi ricordo male. E devi puntare a Pocaccia, se non mi ricordo male. Invece la tenere del primo è la VH messa in verticale, allora c'erano le VHF, adesso invece basta solo una, quindi già basta che guardi una, se ti fai il puntamento te la accorgi subito, è già una cazzata. Non lo so, vabbè, tanto c'è lo strumento. Ci sono vari punti, è vero che sono puntati da una parte e dall'altra, anche almeno la si sente qualcosa. Mi piace lo strumentino, adesso vediamo, voglio capire se quell'antenna è andata a farsi benedire oppure che magari si è sganciato il capo, non lo so, devo vedere un po' tutto. Appena arriva la primavera poi vediamo. Ah beh, adesso non ti come ne fa la propria. Comunque tu vedi che c'è lì, d'altro onde. E pompo, questo strumento dice tutto. Già lo so, no, io lo strumento c'ho solo quello satellitare, io ho due di quelli. Poi per la TV qua, era già lo pensato, gli andavo qualche volta al vero io. Allora quando ci sono uscito anche a cosa? A Fieri, quando lavoravo con Usai. Vediamo dove là. Bene tutti. Perché fare una parabola, l'ho dovuta puntare un traliccio, un traliccio bell'era, puntata lì, ha preso in pieno, poi per farli scendere il cavo, in questo ristorante ho dovuto usare lo svelto liquido, perché c'è passava giusto il cavetto fine. Comunque se sono un cavo sottile, pompo, quello da 5 mm, tu quale? Quello sottile, quello grosso no, fa schifo, non mi è piaciuto a me. Quello per parabola, sottile. Ma non c'è non governa sotto lì. È bellissimo, funziona benissimo. C'è la torna. No, quel ragazzo, no, quello grosso fa proprio cagare. No, assolutamente. Claro, accorda quella. Quella che usano al mare. Raccorda, qua poi che usano il ponteggio per attaccare la cordoletta. Che ha da paletta. Allora, oh, buon pugno, cazzo. Ancora picchendo, dici, lascia perdere, poi fai la marruccola. No, quando vieni, ma picco la mia. Basta. Mi ha fatto tetti, specialmente al centro storico, a quelle ragazze brasiliane, ma allora va anche la pena, l'ultimo al direttore. No, guarda, io qua sono rinato, ma la seguente anni sempre appiccato, sono perfetto, un casino, chi è questo, non è fanculo. Sempre appeso, un casino, invece qua c'è tutto a terra, anche l'antenna TV, qualificata nel muro di recinzione del giardino, saranno 4 metri neanche, 2 più 2, si vede bene tutto, anche il mio vicino stesso ce l'ha nel terrazzino, sul tetto non abbiamo messo niente, assolutamente, verrà piccati a forza con il gasino, no, niente da fare, sono finiti i tempi, sto da presa, non te la metti tu, quando ne abbiamo tolto le antenne a Carmolazzi, ciu. Ah, io già non c'ero di sopra, mi sarei cagato sotto in quartetto tuo. Io c'era Luca, di là già avevamo dovuto fare per togliere le antenne, mai più. Oh, guarda, io qua ho la possibilità di mettere un tralicio a 20 metri, c'ho terreno, che non c'ho giardino, tutto, non metto più niente. Sto girando il mondo con i lipoli e la verticale, basta così, sono finiti i giochi. E poi sono anche spelle, a parte quello. Se ti compri un traliccio devi metterci poi i tiranti, poi ci vogliono le persone avanti per poter installare le antenne, non è che ci sali così, da picchi sopra la alla base per piazzare la direttiva, nulla. No, non l'hai mai fatto, hai ragione, la manutenzione, capito? Fino a quando eri giovane ti attendevi, facevi, adesso no, non si può più fare una cosa del genere. Assolutamente, ma molti di noi radioamatori lavorano così, non si può, ma non devono ancora, non ce la faccio, insomma se lo fa, non si può più fare, assolutamente, c'è manutenzione da fare, il vento di fascia adulto, sai quante volte sono dovuto salire, abbassare, mettere a posto le cose, no? Va bene così, con le filari, qui c'è una verticale 5 bande, va bene così, non c'è problema, tutto tappa del rosmetro, assolutamente. Ce l'ho io, ce li ho la carbonazzi ancora direttive, ma salve, il motore ce l'ho qua, ma non metto più niente, ui, lascia perdere. Si dorme così bene, quando va il vento, dorme tranquillo, invece in quella maniera ogni mattina cazzo me lo alzare appena faceva luce a controllare se c'erano le antenne a carbonazzi quando c'era vento maestrale, capito? Tempo brutto, invece così sei tranquillo e sereno. Rivendite la Lugariello. Infatti così. No, guarda, Mantova è sempre così, mica. Vuole stare famoso in Mavacco Stretto Adriano. Poi gli avevo dato lo spray zinco. Zinco, vabbè, piazza di diamo, vabbè, visto. Poi una volta ruggite. E ancora è lì. E tira il vento, ma è sempre bella retta. Non ci sono più in circolazione. Assolutamente, io ora ho smontato la carbonata, l'avevo piazzata bene, stava vulcanizzata, tolto vulcanizzante, c'erano le fascette, non c'erano oscillabile, l'ho smontata con la cacciavite, normale, sfilate tutti i tubi, pulite, ripiazzata qua, ma ti dico che è un'antenna che lavora veramente bene, io ce l'ho montata, la uso per i 10 metri, monobanda per i 10 metri in 28, da 2800 a 28600, zero di stazionari, è bella, ordinata, funziona sempre. Non ci stanno problemi, purtroppo è così, quando si arriva a una certa età, basta pure yoghi, perché se sbagli io faccio un amico caduto così al petto, capito, facendo manutenzione a quattro tegole di merda, e cagiudo, e non c'è più, e vabbè, pazienza, così è. Ok, ancora gracchiando stanco, forse era troppo alto, ho abbassato appena. Adesso va benissimo, è a posto adesso. Io mi ricordo sempre qua, quando lavoravo da Usai, che sono salito a Usilo un giorno, siamo saliti io, Usai era salito sopra il tetto, il padrone di casa e Emanuele, quindi il padrone di casa dice, e tu cosa sta facendo? Dice, sto mettendo i tiranti, mi ha detto, ma voi, ma no, faccio da solo, non c'è un problema, prende cazzo e non si faccia le tegole, ci scende nel piano di sotto. Cazzo, il piano di sotto c'era i blocchetti, ha accelerato il blocchetto, si è sfasciato un braccio la clavicola attacca, cioè, è uscita fuori, l'hanno portata a pronto soccorso. E dai, andiamo prima che ci mettano in galera. Ha detto, andiamo, un accidente, gli ho detto, questo è venuto per qua per i lavori su di Livorno. Già finisco io, gli ho detto di installare il Emanuele, tu scendi, gli ho detto per sicurezza, che se mi muori tu, gli ho detto, tu come cazzo faccia per i soldi, gli ho detto, meglio che tu te ne scendi per sicurezza, gli ho detto, che se mi metta morta. Allora abbiamo fatto io Emanuele, siamo scesi giù, eccetera, eccetera, quello poveraccio era già partito da pronto soccorso, se l'ha fatto quasi 6 mesi se l'ha fatto, ricoverato là. Immaginati. Che bel coso scelte a fare. Pericoloso. Non è tanto l'altezza, perché anche a 2 metri ci puoi rimanere. 3 metri di facciata, 3 metri, 3,50 metri, neanche 4 metri. Tutto con la schiena è rimasto lì. Si è rotto la spina dorsale, quindi lascia perdere. Allora, non cazzo il butto, lui parlo già la radio, mamma ci vengo la radio, me la futta a sé. KK, è così che era l'Ugariello. Dopo quella, l'altro giorno, lui proprio lì, un mattino presto, stavo uscendo l'aria, sono state buone 6:30, 7:15, e c'era il carabinieri proprio uscito dal mio cancello. 50 metri più avanti, prima della rotonda, e una macchina aveva preso un cinghiale in pieno verso le 6 del mattino. Non è pericolosa quella zona, stai attento, vai piano, perché è un bel pericolosa. Ne saltano dal guardareca, tutto lo trovi davanti, sembrano bestioni. Sì, lo so qua, io lo so. Cazzo, ma dobbiamo arrivo a Capodanno, io ho un orario qua, non posso perdere tempo, vabbè, non corro, a 200 ci scendo quasi. Io so, ma stai attento perché la mattina presto saltano da una corsia all'altra, è pieno, anche da me è pieno, io ho i paletti dove sono agganciati di poli che ogni tanto li trovo per terra perché scavano, si grattano, capite, me ne erano panintorra, allora ho messo quelli più robusti con la mazza e li ho cementati, allora non li piace di più, però a volte vicino al cancello, vicino dove c'è l'antenna eccetera, dove sono i tirati, è tutto scavato, è pieno proprio lì. Ci sono gruppi, infatti avevamo avvisato anche i Baraccelli, però dice che non si può fare niente, ci deve essere un'ordinanza per poter fare un giovedì una caccia particolare, capito, per stanarli e per ammazzarli, ma è pieno. Lo so, ma stavolta praticamente ho finito il giro, una volta che tu esci da lo stop, che poi c'è alla tua sinistra, c'è la strada vecchia, no? Che scendono le macchine da lì, poco più avanti, dopo la curva c'era un signore e c'era questa lepre ancora viva. Infatti mi sono fermato, gli ho detto di chiamare i Baraccelli oppure le guardie di Zuffile. Io faccio parte di classe, non so se hai saputo, ho fatto anche il giuramento. E mi ha detto che stava arrivando. Sicuramente l'avranno salvata comunque. Sì. Noi da noi, cioè qua questa strada non è problema di conigli, lepri, volpi, però tanto non avevo mai morte di volpi, deve essere sotto le nappizze, cinghiali. L'anno scorso d'estate, c'è preso un socco, per carità, una macchina distrutta, una macchina nuova, distrutta completamente. Il tema dei GPS, sono arrivati la stradale, la municipale, e poi c'erano Baraccelli, anche la forestale, perché se no non ti pagano, capito, hanno fatto foto, tutto, poi l'hanno portato via. essere pericoloso, perché si tratta molto di femminileggi e farmazie. Sì, sì, sì, la strada è molto lunga, lì puoi correre benissimo, però... Sì, dalle campagne, tutto campagne poi lì. È vero. No, vabbè, cigani non ne ho mai incontrato, la verità. Ancora non ho incontrato niente, sono sincero. Però purtroppo sai cosa è là? Tipo oggi sono arrivato un po' in ritardo. Io dovrei essere proprio a Osilo alle 8 spaccate. Poi sono arrivato ormai 5 minuti di ritardo, poi ne prendo altre 5, si fanno le 8 e 10, poi devo fare altri due negozietti. Alla fine all'ultimo negozio sono arrivato 8 e mezza quasi, perché tra scaricare tutto e caricare il pane vecchio, il reso diciamo, passo il tempo. Perciò devi dare gas. Vabbè, dare gas, lavoro, dare gas, ma ci tocca un uomo nel mondo, poi sta anche piovendo, a tempo brutto, per quanto sto dicendo. Io quel lavoro l'ho fatto, quindi già lo so come funziona. La puntualità, le cose eccetera, però questo mai mangio di un caro ma non ero brutto, così è. Vabbè, e quindi Pomponio non stai più andando a raccoglierti? No, stavo lavorando con Marco, con Marco Micchi, sto facendo dei lavori insieme a lui, sto parlando su come si chiama la... Dopo la parola dove c'è la fermata del tram di per salire a Osilo, c'è quel campetto di calcetto, ci sono delle bellezze lì, visto che c'è un villone grande con i cancelli in legno, 100 metri più avanti, vado lì e faccio manutenzione elettrica, capito? E quindi è proprio tornare a casa a grattarmi le balle, più che altro. Qualche volta vado lì e quando entriamo che beviamo la birra e poi è tornato a casa a mangiare. Ehi, senza fare niente a noi, è così, c'è da fare. Sono arrivato come me, che non ero più buono, io mi faccio giusto le cose a casa. Qualche cogliettina così, insomma, ma niente di che, da qualche altra parte. Ma se non so cosa fa a casa, guarda. Io già tanto basta così. Non c'è più voglia. E poi c'è cosa tutta dolore, tutto molto male, lui. Vabbè, riprendi lo guerriero e vado a fare una cicca fuori. Cazzo sta piovendo, però vabbè, veranda. Ehi, fuma, ancora non è smesso, qua. Ma ci riesco, una decina al giorno, ma se non ce l'ho, non fa. Mollato tantissimo, non più come prima, non me ne porto manco più appresso. Però la noia di rovazzi, quindi una decina al giorno me le fumo. Ah, vabbè. Da un pacchetto a 6-10, ma cazzo che dal 2008 che non fumo. Ma vabbè, intanto quello passivo, a carità, cazzo. Quello passivo è ancora meglio. So, purtroppo ogni tanto passo il peggio. E vabbè, là. Che ci posso fare? Boh, nulla. E gli FTD, pazienza, tanto. Se non ci muore l'altro, ci muore il dono di Zeghito. Ebbene, ma fa pompa, già torno dopo. Io ho già fumato sempre gratis. Gian Piero quando ci vuoi in macchina. Poi Giovanna quando va a casa sua. Simona quando fuma una volta a casa, quindi sempre gratis ho fumato io. A casa no, lascia verde. Quando abitavamo tutti e tre, in mansarda ancora, che erano salito in mansarda a abitare. Quando andavo a casa di mamma c'era Simona, Giampiero e Giovanna, tutti e tre fumenti. Figurati la cucina come sembrava il bar una volta, sembrava. Si voleva la nebbia. No, quella così no, non è più salute. Andare fuori a fumare, rugacino, tutti se buoni, vai tu. Iaia. No, cazzo in casa, mamma mia, non è cosa più fea. Che carità. No. Simone aveva smesso un po', sì. Aveva smesso sì di fumare, se vuole rimanere viva, se no è fregata, hai capito? Quindi si deve riprendere, pesa 36 kg pesa. Quanto pesa? 36. Picchie! Vabbè, su un nome non lo vedo. Per 36 kg. Stavo dicendo, 36 kg pesa. Ha avuto, diciamo, bloccata la giugulare, si è bloccata. Dal fumo. Quindi immaginati me. È rimasta fortunata che c'ero io a casa, se no era stata morta. L'ho presa immediatamente, ho dovuto chiamare prima l'ambulanza normale, poi è arrivata l'automedica e gli hanno messo l'ossigeno come l'hanno messa al Papa. Prima la maschera per allagare i polmoni. E poi meno male un po' di ossigeno per qualche mese, è ricoverata, mi sembra 3-4 mesi, una cosa del genere. Meno male all'ultimo non ho avuto bisogno di cose di ossigeno. Insomma, avevo già portato a casa l'ossigeno, 50 kg di ossigeno. A casa ho detto, non te ne metti, la bomba del gas, passa qualcuno, allora abitava Alessia, mi riporte con me. Ma fa lì con l'accendino, e pigliamo con tutto, anche salto d'aria, perché spombo, cazzo, bisogna avere un sacco di gimento che si muovono. Esatto, sì, adesso sto facendo la cura di cosa, di costituenti, e piano piano sta prendendo peso. Quindi, no, vabbè, che la scheda fa danno, altro che fa danno. A me no, che mi taccio, non lo sai più le notti. Fa danno, pompo, fa danno. Perciò bisogna fare da bravi, e altrimenti è un casino. Capito, mi hai? È così. Ma a me ha dato sempre problemi, sono sincero. Sempre. Ansia. Ho ingrassato quel chili che ho ingrassato, mamma, tutti nudi. Ma sto meglio, capito? Sto meglio. Mi c'è a vedere il gusto un attimino. Che cazzo è? Vedete i gusti? Vediamo un po' se passa questo qua. Beh. Già passa a me. Non è visto. Ora proviamo un burro, c'è a vedere. Non avevamo bisogno, tutto. Non vi ne ha ancora. Hai capito un po' così è. Gaiete su conto. Perciò anche il bene mi lo stesso. Riti, forse, vabbè. Io a fine settimana le mie birrette me le bevo. Ma solo a fine settimana, settimana niente. Beh, se stai lavorando un po' di bene, ce lo sai anche tu. Sotto che ti do la patente adesso. Se l'ha fatto il bar ha diminuito da più del 50% di persone, quindi uno ci pensa due volte adesso a bersi due birre, a meno che non si prenda la birra che sta vendendo uno spinco, la leggera, che l'ho vista l'altro giorno, l'ho assaggiata la verità, è buona lo stesso, c'ha 2,2 di gradi di alcol, però leggera, e non è amara, invece quelle di prima, però quello che faceva, mamma mia, sembrava pettore, sembrava. Casino, e vabbè, già lo so che non posso bere per la patente, ci mancherebbe, già lo so, ah, no, penso un po' tutti, se ti bloccano, boh, fottito sì, perché la patente è messo tutto, lavoro quanto c'è. Lo so. Diamo gioco. Purtroppo è così, ma è meglio la verità, perché un sacco di gente se ne partiva dal paese, io mi ricordo, venivano da Bono, venivano già mezzo pizzicati, più salivano a Sassari, mangiavano lì da Mario Coso, all'alberghiero, poi cominciavano whisky, poi vino, poi birra, a a mezzanotte poi ripartivano per andare a Mola, perché partiva la colonna per non esserci in pattuglie. Non so come ci arrivava la verità, ma comunque penso che aprivano i finestrini per poter sventiare. Sì, ma bene, bisogna stare attenti, fa danno, col tempo. D'estate, vabbè, qualche vedetta di troppo, ma sempre meglio fare un bel fondo, ci sta, perché se bevi a stomaco vuoto, buon futti così. Se bevi a stomaco vuoto, è logico che ti prende. Prima devi mangiare, fare una bella colazione, non dico zuccheri, né pasta né niente, perché è peggio. Qualche panino, ti mangi. E poi se trovi, dopo un'ora, anche due ore, poi metti anche un paio di birre, non ti succede nulla, appunto, anzi, puoi bere un altro paio di birre a pranzo, e poi sei a posto. Sì, cosa un paio, Giulia. Ma vabbè, a me d'estate a piace di più la birra, d'inverno poco, quasi niente. No, non si fa, vabbè, invece d'estate, un bel panino, la mortadella, verso le 11, mezzogiorno, ci sta una bella biletta fresca, capito, un bel peroncino, due, dai, e boh però. E poi magari a cena, te ne bevi altri due, o uno, capito, ma è boh, senza esagerare, tanto non ha senso esagerare, la cosa, cribatti. Ah beh, quello sì. Infatti non ci deve mal di testa poi, eccetera, eccetera, quindi non conviene. Invece quando te le bevi e le compri direttamente al negozio, te le bevi a casa, poi ti dici, ma state a battere la roba congelata, la prima cosa. Il che non fa a poter stuzzicare con la birra, perché se ti bevi la birra ghiacciata ti viene il blocco di stomaco e quindi sei fregato lo stesso. Quindi è meglio che te la bevi in casa, mangi, aspetti un po' che digerisci e poi ti bevi la birra. Se non ne bevi niente è meglio, Antone, come ha detto Luca. Ma io ho sempre bevuto la birra già da quando c'avevo 16 anni, già mi conosci, sono abituato a quello. Me lo bevo a pranzo, qualche volta bevo anche a cena, oppure solamente quando ho finito il lavoro e basta, poi diventa a pranzo e non bevo nient'altro. Lo sto facendo con Marco, così quando facciamo i lavori, se cade dalla scala, ragazzi, sono cazzi da cagare, facendo, oppure se sbaglio poco, e tocco magari la fase, prima mi controllo tutto naturalmente, se sbaglio poco, ci rimango secco, cazzo, nell'abitazione, facendo quella bella figura. Ma il problema è... Il problema è che fa male, capito? Fa male, perché così non c'è niente da fare. Si può bere così un bicchiere in compagnia, io un bicchiere via mangiando lo bevo, però per quello che bevevo prima non si può più fare, assolutamente. Vabbè. E tu non ti avevi visto la berretta lo venere, non stai più uscendo. No, io esco sabato e basta, e se io venerdì lavoro, cioè sabato lavoro, mi alzo sempre alle 3:30, inviando lo venere. No, per il momento no, per il momento sono lì, poi vediamo, sto optando a cambiare lavoro, adesso vediamo, dai. Ehi, vabbè, quello è un lavoretto che ti aiuta, già va bene. Lavori anche sabato, è vero, se sabato mattina non è un bel pane, portarlo per forza. Devi portarlo per forza, vabbè. Quindi esci sabato sera, un passeggiatina, una visita agli amici, una birretta e su chi andiamo. E allora, sulla birretta, prima mangio però, faccio il fondo, bello bello, la bella pizza, e mentre mangio la pizza la birretta, e d'estate vedi, con la pizza, ma anche d'inverno, meno, no, non è che ci scende più di tanto, però se è bella fresca, d'estate è diverso, si va di più, per chi viene proprio la voglia di bere una bella birra fresca fresca. Però ti mangi un po' di pane e me, se bevi la birra, la fine è calda, con la birra, non sai come va direttamente in bagno, altro che bere il caffè come si faceva una volta. Ehi, cosa? Ah, sì, no, io molte volte qua a casa, capito? A casa, veranda, l'estate, senza problemi, tranquillo, sereno, e via. Cazzo dice, beh, no, d'inverno non lui, d'inverno un bicchiere di vino fresco, no, come sempre, un fumantino, un, insomma, un vino da bianco leggero, e un bicchiere di vino lo sto mangiando, quello ci sta sempre, quando venne non mi ha fatto nulla, però birra alla bocca, perché mi gonfia subito, e vado a sciabbanza, è un casino. Io devo mantenere il peso lo stesso perché ho problemi alla schiena, quindi come ingrasso mi fa male la schiena. E allora bisogna tenersi al regime, non si può più fare, dice si va zia prima. Pazienza, pazienza. Abbiamo già dato anche di Luca, cosa dici tu? E claro, gli anni passano, un po' per tutti chissà. Altro che. No vabbè, il mio peso è sempre quello, Ica. D'estate magari ti bevi una bretta di troppo, ma senza esagerare, come sempre. Ma il peso mio è sempre quello, no? Non ingrasso, ecco, dai. Non ingrasso più di tanto. Almeno quello, almeno la mia fortuna è quella. Invece io no. A me se esagero mi fa ingrassare tutto, anche l'acqua. E vabbè, oggi è vero. Ma poi d'estate tendo anche a scendere di peso, col caldo mangi meno, capito? L'inverno mangi di più. Infatti stanotte mangio leggero, con una piuma e polistirolo. Anche quello è così. No, mangiare già non mi piace, però non ne puoi approfittare, capito? Perché se ne approfitti, a me mi fa ingrassare subito. No, ci sono problemi. E vabbè, pazienza. Antonio invece la giubica da Cali si diventa di dondo, Antonio. Sono sempre uguale. No, qualche chilo già l'hai preso, dai. L'ultima volta che ho visto. Ci avrei preso qualche chilo. Tu sei un bevitore di birra. Vino non ne bevi. La birra ti gonfia. La birra gonfia ma la giusti, è così. Vabbè, comunque. Già ci vuole anche quello, se no sembriamo in galera, no? Poi vino, poi vano, poi va nuda. Ah no, ma ci abbia il culo. Non è un problema. Gappa gappa. Cosa stavo dicendo lui? Un'altra cosa, ma dico, ma ho sentito poco fa. Morto il fratello Emanuele, perché Emanuele fratelli aveva. Certo, Cla. Prima era morto Raffaele, anni fa, due anni fa, tre anni fa, non mi ricordo. Adesso morto questo. Quello lavorava da Linda, cioè del carrozziere. Poi ne ha altri, c'è sorelle, capito? Ora datemi 10 minuti, 4 ore che preparo la pappadea. Perché adesso sto facendo mangiare la. Come si dice? Carote, zucchine e pesce, perché ultimamente sto andando con le bustine di umido, di carne, no? Sono sempre i grattelli, ci gratta, ma molto meno adesso. Noto che le piace molto, datemi un attimino, gliela schiaccio, arrivo subito. Le do al mio io, le zucchine. Zucchine, carote, patate, con la pasta, con i biazzi. Ma vorrei far vedere le matite, non è vero, con la immondezza e lui lascia perdere, non viene a fare, riprende Antonio. Poi mi chiama già di tutto, grazie a Dio. Specialmente carne, la voglia, salsiccione, cosa ti posso dire? mozzarelle, mangia, gli piace un bel iceberg, si mangia quello, si mangia, è un cane tutto quello che fate i suoi, fa partire, a volte mangia anche le voci, dipende da come gli viene in mente, si piazza come il coniglio, si piazza e fa perché le piace cosa, e poi fa bene le verdure, fanno bene, ma poi il mio cane deve mangiare le verdure, deve mangiare, capito? Mangia solo crocchette di pesce mio, però due volte alla settimana mangia la pasta, pasta con la carne, con le verdure, dipende, dipende, pasta col tonno, con la scimmia, con la carne macinata, oppure con le verdure, zucchine, carote, patate, tutto mischiato, e fa bene, aiuta anche alla digestione, tutto, capito? E uscì, organi, gandolirai, bisogna tenerlo bene, se no è un bel casino. L'altro giorno ho preso due polli, 2,30 da Rospini in via Verona, di quei polletti piccoli, uno ci abbiamo diviso in due, io e lui, immaginati, se l'ha mangiato tutto, se l'ha mangiato, e io lo stesso, perché avevo un po' di appetito, c'avevo. C'ha i piselli, mangia, roba che è strana, i piselli già li fanno anche bene, la verità. Ma i piselli non ho mai provato a vedere il mio, non so se li mangia. Ma la canetta non la mangia Fippo, cioè la mangia, le piace, ma le fa male. Le fa male, cane di manzo, cane di cavallo, cane manciata di cavallo, tutte quelle cose, ma Polonielo. Non glielo, assolutamente. E vabbè, è uscire. I cani, se ce l'hai, ce l'hai, se non ce l'hai, non ti conviene bigliarne perché è un grande lavoro. Il mio c'ho già 13 anni ancora, diciamo è già in forma, ma sta già accusando la vecchiaia perché è già fuori budget. Sono cani che stanno bene sino a 7, 8 anni, 9 anni, il mio ne ha già 12 fatti, ne fa 13 all'agosto, capito? Quindi è così, ogni tanto una pastiglia, un antinfiammatorio ci vuole sempre. E vabbè, per il resto come Antonio sta a posto? Sì, come ho detto, sì. Per lo meno, sono sempre, quando non esco, a volte mi vado così a trovare a coso, a Tonino qua sotto, per non fare tutto ciò che ho buttato a casa. A parte devo dare anche una mano a Simona, a volte cammina, a volte non riesce a camminare. C'è problemi di ambulazione, quindi rimango a casa e mi viene la paranoia, mi viene. Però del resto già va bene, adesso sta facendo la cura di costituenti e un po' di qualche cosa la pesa, da 36 che pesava adesso che pesa 40. Quindi la sta avanzando piano piano. Ma prima non voleva vista, sembrava uscita da Auschwitz. Come sta? Meglio o sempre costante, diciamo, né bene né male? No, sta un po' meglio, stamattina è scesa a casa di Giovanna, si è fatto le scale, preso l'ascensore, è scesa a casa di Giovanna e mica passato il tutto buttato nel letto a guardare la televisione. Se rimane senza letto non si ribezza più, già lo sai, una persona, e quindi la sto facendo alzare in modo che riprende la voglia di camminare. Farla camminare, farla alzare, farla mangiare, cerca di spararla un po', se no è un casino. Mia mamma mia era così, con la scusa che era sola a casa, mangiava poco, sempre a letto, ho già fatto in piedi, ho già fatto in piedi. Invece adesso sta molto meglio perché a casa di mia sorella Larghero sta molto meglio. Esce, cammina con l'ambulatore, piano piano, capito? Ma cazzo mamma c'ha 94 anni. però si stava lasciando un po' andare, capito? Anche perché mentalmente è lucida e quindi perché lasciarti andare così? Ti aiuti piano piano, poi esci e piace uscire, stare più attento al sole, chiacchierare, fare. Invece la musica va giù, è un casino. Non c'è nessuno e quindi, capito, pensi che sia arrivato, invece non funziona così. Infatti appunto per quello, potete pigliare la depressione ancora di più, non solo l'altro. Capito, diventi depresso, eccetera, eccetera. Una volta presa la depressione, se non ti curi, vai andando, cioè anche se mangi non assimi di più, hai capito, tendi a dimagrire. Quello ti sto dicendo, cercare di stare vicino, farla mangiare e aiutarla un po', capito? E perché no, portarla giù, fare due passi lì, già non c'è, non è che vi va a segarrire. E prima scendeva da sola, trovavo spesso la Sonia, non passavo a prendermi il caffè, invece poi si è incasinata e quindi adesso non c'è più. Infatti, vabbè, prima già si fumava anche la sigaretta la Sonia, quindi fumava tutte e tre. Già faceva colazione, grazie a Dio, visto che già era più azzilla. Poi vabbè, una volta che Sonia è andata via, anche fuori, è di Anna, ma non che mi va da Tonino. Abbi sicura cosa, se non mi piace questo localetto che hanno fatto. Buonaredo, basta che entri da dentro, ti prendi una pasta, ti prendi qualcosa da mangiare, un caffè o ginseng, quello che vediamo, il caffè non le prende ginseng e prende. Il ginseng l'ho comprato dallo Spin, ci sono quelle bustine, non faccio altro lo faccio io e poi la mattina io lo metto nel bicchiere e lo giro e si lo beve. Lo vuoto anch'io addirittura il ginseng. Fa bene la mattina perché ti dà, come si dice, forza, ti ravviva un po' di più, mi capito? Sì, già lo so, molte volte l'abbiamo preso anche assieme il caffè. Già lo so, no, la scenderia di Gattonino, no, e poi c'è la salita, ma si stanca, capito? E sotto casa tua va bene, come hai detto tu va bene, sto casa tua, due passi, due cose, ed è in ottima forma, se no non fa, perché ora sono, 7:04 sono, e se io faccio un colpo di citofono a mia mamma, va bene, se tutto a posto è, se ci siete sentiamo dopo, Antonio, tanto sono qua in radio, già sono qua, ok. Già rientro dopo. Ehi, va bene, non c'è problema. Io sono qua all'ascolto. Che da. Hola, hola. Attenzione, sul 10 c'è qualcuno, c'è qui canale 10. Ora attenzione al canale 10. Hola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai. Ma cosa dici? Ci sono sempre io, frequenza, poi non ci sei mai, boh. Adesso il tavolo di portatore si già. Ehi, vabbè, sempre no. Ma le volte ho roba da fare, non ce la faccio entrare, non riesco a seguirti. Sta scherzando, ci mancherebbe altro, anche io mi stavo cantando, se adesso ho smesso, ho messo il telefono in carica. E ho acceso l'apparecchio a vedere se c'era attore o qualcuno. Vai. Di solito c'è sempre attore, ma stasera deve essere... O è andata a prendere la nipote, non lo so. Non avevo capito già. Vabbè, ogni tanto cosa va a fare. Tipo stasera stavo controllando un tablet. Un sistema atto che praticamente c'erano i tasti dentro, da 2 anni fermo, lo accendo e c'ha sto display messo male. Infatti la tipa gli avevo detto che non faccio dare niente, cosa va. Se posso bagare. Alla fine. Quello è un tablet che andrà. Non si è fatto nel cassetto. Ah, si è proprio ballato il tablet. Cazzo. A Manuela gli è caduto l'iPhone intero, si è spaccato il vetro, poveraccio. Grazie del conato. Ma ne sarà successo in tutti i colori, papà, mi è caduto il tablet e balli l'iPhone e mi si è rotto lo spedo, ho detto vabbè, glielo cambi, frega. Scusa, non ho capito. Ma non si capisce quando parlo. Ma tu ci arrivi sparato, cazzo sei in basso. Ripeti, cosa hai detto? Adesso come va? Adesso meglio. Sì, perché c'era tutto il mic che l'ha abbassato, aspetta se... Scusa già, perché mi stavano mandando dei messaggi, mi stavano chiedendo informazioni per quella scheda audio famosa che uso sul TikTok, se la vuole comprare un vicino di casa. Io voglio entrare avanti, mi senti già? No. Come non mi senti? A te ci sento, quello che deve entrare no. Ah no, non so se arriva, tanto arriva alla 7:30 a casa. Vediamo un po', porto dottore, se ascolti Sassari. Dovresti sentirlo magari, boh, vediamo un po'. Ma chi è il genio? So chi è quel tipo, aspetta lo dico chi è. Ah, quello che ha detto, sarà cosa? Un genio? Oppure è Antonio, Antonio Sceriffo? No, Danilo Sannino si chiama. Boh, non lo so allora. Sannino è il nome che c'ha portato dottore, però non so chi sia. No, oh, non ho idea, non lo so, buh. Fatto che entra al 10. Vediamo un po'. Tanto mi sa che mi avvio la cena. Mangio una bella zuppa di latte stanotte già. Una giugandi. E poi c'ho anche l'affettato, se vedi, forse mi faccio un panino, buh. Io mi sono mangiato un po' di formaggio piccato, ma un po'. Mi hai detto troppo pane però. Per un voglio con la crema. La colazione è meno salto. Oh no, già sono, penso di no, boh, non lo sento, aspetta. E poi sta piovigginando. Ne sono uscito a buttarci la bandezza, non stava piovendo, ma pizzicando proprio in pieno. Cioè, a metà strada. Ma chiama il portatore, si già. Attenzione portatore, se si ascolti Sassari, Danilo ci sei. Stava parlando ma non capisco cosa dico. Forse è uno splatter, boh. Attenzione Danilo, se ascolti Sassari. Poi io sbatto non ne sento, questo baracchino non ne prende colpi. Ma mamma che mia, non volevo dire spazio, volevo dire esteri, capito? Qualche contatto di propagazione. Questo baracchino non ne prende sblatter. Forse se ti sposti un canale me lo sblatteri, no, per quello guarda già è bella. Ci siamo lì già, vediamo un po'. Attenzione, doppio room, si sente l'ecco. Va bene, va brutto, bene. Bello, com'è? Devi parlare più piano, però, se è troppo ripetitivo. Aspetta che l'abbasso un po', guarda adesso, 1, 2, 3, prova. Così già va bene. Attenzione, Gianni doppio room, si senti Luca, che Qual è, qual è questo qua? Quello elettrico, tutto elettronico. E il... ma che si chiama? Aniton, boh. Il 6555 Plus. Ah, ho capito, quello che c'ha un po' di funzione, di cosa, ho capito. E poi c'è anche il Kino, tipo quello lì. E lui è un modello diverso però. Come questo, ma un modello diverso. Questo qua c'ha... A, B, C, D, F, sì, bande. È buono. Vabbè, io uso sempre il Galaxy solitamente. Ne ho 4, ma uso sempre il Galaxy. E poi c'ho il 3009, ti ricordi mi avevate coperchi, tutte le cose nuove. Conservato quello. Poi ne ho un altro piccolino. Adesso vedo quando avevo ricevuto, non me ne faccio niente io. Non mi posso adesso ricevuto, e poi no. mi assilo più lì a rompermi le scatole, a memorizzarmi le frequenze. Perché le cose che ti attiravano non ci sono più, capito? Prima c'erano altre cose, sentivano altre cose che ti attiravano, magari. E comunque lo puoi ascoltare, a voglia, un ricevitore. Ma sono crepitate certe frequenze. E vabbè, lo senti. Lo senti tutto, però molte cose già le senti, capito? Bisogna cercare le frequenze, la voglia che ne ha frequenze, un ricevitore ne ha più di un baufeng. Ma quello è portato? No, veicolare. Ma è solo un ricevitore? Yes, ricevitore, ricevitore. Ehi, vabbè, uno dice ricevitore perché magari non lo può tenere l'altro e dice ricevitore, capiamoci, dai. No, questo lo puoi tenere, un ricevitore non c'è il microfono e niente. Non c'è la tela, scusa, perché non ti invece a ascoltare, non c'hai tempo. No, già, non riesco a sintonizzarlo, farlo funzionare. Marco già è bravo su quella radio lì. Io non ci riesco. Guarda, se trovo qualcuno mi dà 50 euro, se lo porta via. Io non ci riesco, non sarà chissà a come è difficile, ci sono i passi. Bisogna sapere dove devi andare nel menù. Allora già, il discorso mio è oggi più pazienza, ecco, proprio ho detto, capito, non ho più pazienza. Prima sì, adesso non ho più pazienza. Così, non ha di più gas, sentiamo, ma tanto usa il vento. Aspetta un attimino già, puoi rimanere un attimino qua già, che mi avvio un attimino, tanto faccio in fretta. Senta quello di Porto Torres, prova a chiamarlo a vedere. Attenzione al Porto Torres, se ascolti Sassari. Danilo, ci sei? Non vedi su. Magari non l'ha manco acceso. Magari senti un giro, senti qualcuno del Porto Torres e poi comincia a modulare anche con noi. Perché lui ha detto, meno male che c'è qualcuno vicino, ha detto così. Arrivo subito già. Dammi qualche minuto. A portare il cane, se... A farmi la cena, già. A magna, cattivo, vedi qua. Cazzo magna, così dalla buia, io vado a presto a letto, verso le 8:30, massimo 9, giù qui a K.O. Ti alzi presto la macchina e ero briglia. Sì. Finché il fisico me lo permette, lo faccio, poi non me lo permette più, pazienza. Magari ti prendi anche fisso poi e lavori tutto il giorno. Cazzo tutto il giorno, faccio quegli orari lì e basta. Posso fare adesso, appena finisco del giro del pane, che finisco alle 9, e poi faccio male dalle 9 alle 11, mezzogiorno, quindi mi ripaga da parte, capito? Sono ore in più. Arrivo già, aspetta. Ma il giro a che ora lo finisci? Alle 9, ti ho detto, faccio 6 e mezza 9. Io va bene, già fai freddo, ne è pochi sì. No, fatto, comunque lo sai che mi fa male l'anca, lo sai. Davvero, come stai tirando sui pesi? E ogni tanto, secondo, mi fa male, cazzo. Non è che il dolore è forte, poi il fastidio c'è. E magari anche un po' di artrosi, sai. Magari non è femore, ma magari anche un po' di artrosi. Ora? C'è qualcuno? Attenzione al canale 10, se ascoltate la città di Sassari, nord Sardegna, Italia. Se avete ascoltato, devo chiudere che devo portare giù il cane. Ci sentiamo alla prossima, vai. Michael Pezzuru, 188, Quadanino, qualcuno che riceve? Michael Pezzuru, 188, Quadanino, se nessuno mi ascolta. Pezzuru, 188.